Nuovamente in diretta dagli studi di Via Zanardi, quando sono le 7.47 di questo 16 maggio, riprendiamo la diretta del Breakfast Club con un insieme, altri suoni last minute per un ricco weekend a cura di Angelica, 34esima edizione. Allora, ieri, però dobbiamo andare al 1948, vedeva la luce Brian Eno. Brian Eno, musicista, compositore, pioniere di tutto ciò che è musica elettronica, con la realtà d'ascolto introspettivo d'ambiente, appunto arriverà al termine musica ambient, ci saranno le sue serie dedicate appunto a questa sensazione, una possibilità d'ascolto diverso, non solo meditativo, ma anche una possibilità d'ascolto del subconscio e dell'inconscio, un ascolto diverso, ma come piace a definire spesso a me alcune microsensazioni, perché di microsensazioni si parla, diversamente normale. Allora, in occasione, anche se vogliamo, della ricorrenza del suo compleanno, è stato il 15 maggio, è stato ieri, quindi tanti auguri a Brian Eno, però per quanto riguarda il motivo d'espressione musicale e di ricerca, pensate al progetto di riportare in maniera acustica le sonorità prevalentemente elettroniche di questo genio. La performance è curata dal Daedalus Ensemble per quanto riguarda i lavori di Music for Airport del 1978, Thursday Afternoon del 1985 e Discrete Music del 1975. Di questa formazione, che conosceremo meglio grazie al contributo, alla conversazione che ho avuto con Massimo Simonini, e l'ispirazione per quanto riguarda portare in note e le sonorità tra dialogo di scrittura elettronica e riportarlo con un ensemble prevalentemente, direi quasi totalmente acustico, sarà alla chiesa di Santa Maria della Pietà per sabato 18 maggio alle ore 20:30. Vediamo un po' come è nato questo incontro e questo progetto grazie alla realtà di Angelica, 34esima edizione. Come nasce tutto ciò? La genesi è che Didier Shure, chitarrista, bassista e anche direttore dell'ensemble francese Daedalus, con questo organico di 10 musicisti, 10 strumenti diciamo acustici, seppure la chitarra elettrica abbia il suo amplificatore, ma il concerto nella chiesa di Santa Maria della Pietà, che è la prima volta che Angelica fa un concerto lì, volutamente abbiamo scelto questo programma. Didier Shure ha tradotto, trascritto, arrangiato un manifesto della musica ambient quale è Music for Airport e Discrete Music, e poi l'altro pezzo che adesso mi sfugge il nome, Thursday Afternoon, esatto, e questo programma che durerà all'incirca 50 minuti complessivamente, perché viene anche presentato ogni volta in maniera diversa a seconda anche dei contesti, viene presentato alla chiesa di Santa Maria, in qualche modo è tutto amplificato grazie anche a questo luogo suggestivo, a questa chiesa, ed è un invito a decollare tutti insieme, a lanciarsi nello spazio, in modo che magari avvenga una sorta di ascolto, anche meditazione se vogliamo, collettiva, perché la musica in questo ambiente e per questi strumenti acustici secondo me ci può aiutare a fare un buon viaggio. Brian Eno è stato informato di questa cosa, ringrazia per l'invito, perché l'abbiamo invitato, dovevamo con Walter Rover presentare anche un film, ma poi non siamo riusciti a presentare un film con la Cineteca di Bologna, lo faremo spero prossimamente. Però Brian Eno molto impegnato, non verrà, se non che, visto che qualcuno ha detto che forse ha una casa a Roma, ma non so se poi ci fa una sorpresa. Ma noi ci accontentiamo di eseguire le sue musiche in questo arrangiamento, per me suggestivo il luogo, e poi ci introduce l'ensemble Daedalus anche per il concerto successivo. Cioè decolliamo, andiamo in cielo, ascoltiamo gli uccellini, perché in cielo passano anche gli uccellini, e il giorno dopo siamo invece al centro di ricerca musicale Teatro San Leonardo, a pochi passi dalla chiesa di Santa Maria della Pietà, per l'ensemble Daedalus in sestetto, che esegue una composizione di Pierre-Yves Massé per canti di uccelli registrati e questi sei strumenti acustici. Quindi è una sorta di concerto interattivo tra i canti degli uccelli e gli strumenti dell'ensemble Daedalus, questa volta in sestetto rispetto ai 10 che suonano il 18 maggio. Quindi 18 e 19 maggio, come anche tradizione di Angelica, mostrare dei lati diversi dello stesso ensemble. Abbiamo fatto negli anni con tanti musicisti, non solo compositori ma anche gruppi. Allora, tornando in diretta, Brian Eno. Perché Brian Eno? Perché cambia non la modalità della composizione, se vogliamo, con questa struttura. Certo, intanto abbiamo ascoltato come base Music for Airport originale, ripreso dal capolavoro, secondo me, di Brian Eno. Adesso stiamo ascoltando delle frange, dei segmenti di interpretazione dal Daedalus Ensemble. E dicevo che ha cambiato il modo di ascoltare, e questo è il genio, secondo me. Ha cambiato il modo di far ascoltare, ma soprattutto di far sentire la musica. Non è più un ascolto, è un sentire, è un avere in maniera totale, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista del subconscio, un'assunzione delle sonorità. Non sono affatto sintetico, anzi sono purtroppo molto prolisso, però in due parole di Brian Eno io dico questo, quello che è stato pioniere rivoluzionario in questo, nel modo non di cambiare quell'aspetto di composizione, ha portato, sono stati, si parla, no, di solito. Ecco, lui è stato il primo probabilmente a cambiare il nostro modo di ascoltare la musica, di assumere la musica. Thank you. Beh, certamente sentirlo riproposto. Poi magari a sorpresa in Italia, a Roma, perché ieri è stato il suo compleanno, si concede una vacanzina e sabato ce lo ritroviamo alla chiesa di Santa Maria della Pietà. È a due passi dal centro di ricerca musicale del Teatro San Leonardo, sempre in via San Vitale. Allora, questa formazione nello studio di approfondimento musicale sulle sonorità di Brian Eno, trasformandole in aspetto acustico. Quindi i droni alla Terry Riley, Brian Eno avrà studiato tantissimo sulla musica di Terry Riley e di altri musicisti, chiaramente sostituiti da questa formazione con gli archi e con una possibilità, una diversificazione di proposta musicale, certamente che dà una curiosità oltre che un piacere all'ascolto in una sede che direi è particolarmente atta a queste sonorità, come di solito è nella ricerca dei palcoscenici di Angelica. Angelica, che ha un pubblico, e anche questo un aspetto che ha colpito sia me che il direttore artistico Massimo Simonini, che cambia ogni volta ma che nello stesso tempo ha una nicchia di ricerca che diventa sempre più vasta ed eterogenea. È un ascolto musicale che dà sia nello spazio che nel tempo una possibilità anche visiva oltre che d'ascolto, musica da ascoltare in maniera totale, e con questa diversificazione direi proprio che è un valore aggiunto al nostro modo di sentire musica. E poi aggiungo un'altra cosa, William, che in un contesto che, al di là che ognuno di noi può scegliere le musiche che vuole, specialmente se c'è molta varietà, ed è meglio che ce ne sia molta di varietà, ma abbiamo notato negli ultimi anni che quasi sempre, poi c'è qualcuno che rimane, che segue più complessivamente il festival, ma il pubblico cambia in una percentuale molto alta ogni sera. Ma veramente, pieno la prima sera, pieno la seconda sera, praticamente pieno anche la terza sera, è il pubblico completamente diverso. Fa un po' anche impressione rispetto a 15-20 anni fa, era solo che facevo notare questo aspetto perché è abbastanza impressionante. Cioè, non penso che un festival jazz il pubblico cambi così radicalmente ogni sera. Beh, l'aspetto di Angelica dà questo sguardo eterogeneo, seppur per diverse nicchie che stanno sempre portando più attenzione. Mi trovi al Festival delle Scandinave, dove con questi suoni che hanno dato sguardo all'improvvisazione, alla narrazione, al mito, all'epica, alla favola, e come mi trovi per ascoltare la musica elettronica di Brian Eno e allo stesso tempo seguo i festival jazz più importanti. Quindi certo, vedi, questo è l'aspetto del pubblico. Ma è giusto pubblico. Così. E vi invito anche il 17 maggio per questo quartetto Sadviri and Friends, musiche da Bali, gamelan, tradizione fondamentale nel mondo della musica, questo quartetto che saranno seduti su delle pedane rialzate al centro sala del Teatro San Leonardo, che è da non perdere, secondo me. Io ti ringrazio tantissimo per aver presentato il weekend di Angelica imminente e ti auguro una buonissima giornata. Ciao, buon lavoro. Grazie per la musica che porti. Ciao Massimo. Buona musica a voi, ciao. Thank you. piccolo assaggio allora. Siamo andati un po' in maniera disordinata, siamo partiti da sabato per poi dare presentazione anche alla domenica e una breve anticipazione, ecco in questo caso last minute, a quello che sarà per domani venerdì 17 maggio. Tutt'altro che foriero di sventura, anzi al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, ovviamente a Bologna, venerdì 17 maggio alle 20:30, Satvitri and Friends per Gamelan, musica tradizionale e contemporanea da Bali, Indonesia. Sabato 18 maggio alla chiesa di Santa Maria della Pietà, Looping, Brian Eno, performed by Daedalus Ensemble. La domenica 19 maggio alle ore 20:30, questa volta si continua al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, Daedalus Ensemble. Come prima ho detto, informazione completa, ora abbiamo 6 elementi per Note pour le diapason invisible, la musica riportata da 6 strumentisti e canti di uccelli registrati. Anche quello di venerdì, tanto, tante emozioni, micro sensazioni e la conoscenza anche di musica dall'altra parte del mondo, che sotto uno stesso cielo, il cielo che è anche nella locandina bellissima fra l'altro nei loghi di Angelica, 34esima edizione, porta una intersezione musicale e allo stesso tempo un filo conduttore legato al gusto, all'estetica e all'emozione. Pubblicità, poi andiamo in mostra. A tra poco, buon ascolto con il Breakfast Club.